Un grande successo di pubblico sta arridendo alla 500, ultima nata di casa Fiat, che dal suo debutto il 4 luglio 2007 è in continua ascesa nella classifica delle vendite. Oltre alla linea accattivante, infatti, la vettura italiana può vantare una qualità piuttosto elevata, salvo qualche piccolo guaio dovuto per lo più alla giovane età del progetto. Per verificare le doti del cinquino, Quattro Ruote ha optato per la prova di durata, il più classico di tutti i test del mensile, spingendosi addirittura nel deserto. Ecco le caratteristiche principali dell'esemplare sottoposto alla prova di durata. Nome: Fiat 500 1004 Lounge. Carrozzeria: 3 porte a 4 posti. Dimensioni: lunghezza 3,55 metri, larghezza 1,63, altezza 1,49. Motore anteriore trasversale, 4 cilindri in linea a benzina di 1368 cm3. Potenza 100 cavalli, trasmissione trazione anteriore, cambio manuale a 6 marce. Prezzo 14.651 euro.